ci siamo accorti che l'allargamento a est, come anche l'approvazione della Costituzione europea, costituiscono avvenimenti molto importanti, però non riescono a colpire alla base. E allora, siccome la Caritas è un'organizzazione di base che lavora con la gente, e noi siamo una struttura come dossier statistico di immigrazione al servizio della Caritas, siamo rimasti contenti di essere riusciti a richiamare l'attenzione, perché i grandi eventi sociali, se non c'è questa sensibilità di base, rimangono degli eventi spolpati, non riescono a colpire, non animano i passi delle persone. Ecco, noi abbiamo voluto fortemente questo libro. La Caritas italiana ci aveva detto: scrivete quello che volete, però scrivete cose che la gente capisca e che costituiscono un indirizzo per le persone. Da questa risposta che abbiamo visto del convegno, forse qualche cosa siamo riusciti a fare. L'allargamento ha comportato delle modificazioni giuridiche, per cui abolite le frontiere, adesso anche i nuovi 8 stati membri dell'est europeo fanno parte della casa comune e godono della libera circolazione, non gliene importa niente dell'espulsione, perché non possono essere espulsi, ogni stato occidentale è anche stato loro, e capiscono che questa è una grande conquista. Per inciso dico che certe posizioni molto corrosive dovrebbero misurarsi di più con quello che pensa la gente, per esempio gli immigrati che soffrono delle legislazioni restrittive, compresa la nostra, gioiscono invece per il fatto che, essendo ormai cittadini europei, sono più protetti. E però, nonostante tutto questo che ho detto in positivo, questo avanzamento giuridico ha mostrato delle differenze, perché noi abbiamo l'Unione Europea, dove c'è una normativa uguale e molto più avanzata per tutti. Ci saranno difetti di applicazione, però è enormemente più avanzata. Chi non riconosce questo credo che sia molto staccato dalla gente. Poi ci sono i paesi che devono aderire all'Unione Europea e che non godono di questa normativa, e già nasce una specie di frattura, perché tutti vorrebbero avere lo stesso livello di copertura che poi non hanno, e comunque si tratta di un problema di attesa. Noi potremmo fare molto per facilitare questi anni che mancano per l'adesione della Romania, della Bulgaria, della Croazia e man mano degli altri stati europei. E poi c'è ancora un terzo cerchio, che è fatto da paesi che né aderiscono attualmente all'Unione Europea e neppure aderiranno nel futuro, per esempio la Russia. Insomma, sembra improbabile che si pensi a un'adesione nell'Unione Europea della Russia, non ne parlano neppure politicamente come ipotesi. E rimane il problema che l'Europa è più grande dell'Unione Europea e che l'Unione Europea dovrebbe rendersi conto di non fare o di stemperare quello che urta l'altra Europa. E quindi, da questo punto di vista culturale, è molto stimolante, perché sono degli aspetti che toccano da vicino la vita delle gente e che dovrebbero animare di più i politici. Noi troviamo un grande appiglio in queste cose per ragionare con la gente, per mostrare che le cose, anche se sono decise in vertice ai quali noi non partecipiamo, sono delle cose che ci riguardano da vicino, a noi stessi, gli emigrati che abitano vicino a noi, gli emigrati che verranno domani. Insomma, queste cose costituiscono parte della nostra vita.